niente più potrà mai spezzarmi il cuore, niente potrà più abitare qui nell'anima, nell'anima, nell'anima. Sei tu, sei un angelo, dal ricordo taglierò le stelle, la notte splenderai nell'anima, nell'anima. Sei tu, l'amore vero non finisce mai, fa giri eterni nell'immensità, poi torna nell'anima, nell'anima. Oggi non c'è vuoto più grande al mondo, no, di quello che hai lasciato dentro me, però sei nell'anima, nell'anima. Sei tu, non c'è addio, perché ovunque andrai sarò al tuo fianco, ovunque andrai sarai con me, nell'anima, nell'anima, nell'anima. Sei tu, ti abbraccerò quando tu sarai l'arcobaleno che si poserà qua giù, nell'anima, nell'anima, qua giù. L'amore vero non finisce mai, fa giri eterni nell'immensità, poi torna nell'anima, nell'anima, qua giù. Non c'è vuoto più grande al mondo, no, di quello che hai lasciato dentro me, però sei nell'anima, nell'anima. Sei tu, la morte non esiste, sei solo dall'altra parte, vivi qui nella stanza accanto, tu ci sei, tu ci sei. L'amore vero non finisce mai, facile eterni nell'immensità, poi torna nell'anima, nell'anima, qua giù. Non c'è vuoto più grande al mondo, no, di quello che hai lasciato dentro me, però sei nell'anima, nell'anima. Nell'anima, nell'anima, nell'anima, nell'anima.